fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di... Alex e Francesco. Alex e Francesco, ciao ragazzi. Ciao, ciao a te. Come va? Tutto bene? Bene, bene. Da dove venite? Dalla provincia di Varese. Varese. Siamo vaghi. Siamo vaghi. Più vicino a Busto Arsizio. Vabbè, non conosco la zona, quindi va bene Varese, tranquillo. Siete qui per festeggiare cosa? Il compleanno, scusa. Lo sposo è lui. Lo sposo, l'addio al celibato di Raffi, che è lui. Che lo conosco grande. Perché è entrato prima il Raffi. Raffi, è grandissimo. È tuo cugino? È il suo cugino, no. Però vi somigliate, c'è da dire. Qualcosina, dai. È la prima che lo dice, forse. Beh, non lo so. I capelli? Lui sì. È più bello, però. Guarda che capito, capisco, Lo capisco. Si è buttato subito avanti. Tu sei l'amico invece dello sposo? Io sono un amico, sì. Testimoni? No? No, il testimone è in giro. È il testimone, è entrato con è lui. Quello alto. Sì, è entrato con lui, esatto. Prima è entrato con lui. Sì. E cosa fate nella vita, ragazzi? Io sono un fabbro. Fabbro? Sì. Io sono un programmatore. Va bene. Faccio musica, faccio tante cose. Bello, allora, dai. Sì. Più o meno sei anche tu in questo campo. Sì, assolutamente sì. Quindi forse sarai più pratico di me. No, perché tu ci lavori tutti. Mica tanto. Io prima devo rompere e poi capisco cosa. È giusto. Sbagliando si impara, come si dice. È la verità. E ragazzi, come lo vedete lo sposo? È pronto per questo matrimonio? Sì, è pronto, 12 anni. 12 anni due figli. Mamma mia. Allora se non è pronto lui, chi deve essere pronto? Assolutamente. Io sicuramente no. No, eh? No, noi no. Voi siete fidanzati, sposati, cosa siete ragazzi? No, siamo io sono fidanzato. Sì. Siamo no, perché poi sembrerebbe brutto. Però io sono fidanzato e... Io non lo so. Stasera lo scoprirà. No. Però non lo so. Sta bene da solo, guarda. Quello è un tipo che ha capito tutto nella vita. Esatto. Meglio soli che male accompagnati. Esatto. Sì, meno bello, io non parlo. No, perché lui sta bene. Lui sta bene in compagnia. Cosa c'è? Cosa che? Stiamo parlando di te, stiamo parlando di te. Di te stiamo parlando. Lui è un altro dei nostri e è curioso di sapere cosa diciamo. Sì. Lui è... non può saperlo. Questo è il confessionale, qui dentro non esce nulla. No. Stiamo dicendo tantissime cose brutte su di te. Sì. Ma proprio. Tantissime. Sì. Ah, ok, va bene, non so cosa hanno detto. Ha detto che gli piaccio, anche me lo continua a dire, però io non mi interessa perché sai. Si sta dichiarando. Io però non mi interessa. Quindi continua. Guarda, io non parlo però il mutismo così con te, l'alfabeto muto. È una dichiarazione d'amore va che bene. Fa sempre, vuole che tu dica a me. Vabbè, provaci, dai, adesso io ti libero così puoi provarci, va bene? No, io no, perché lui continua a provarci, io no. Voglio vedere questo film. Va bene, ragazzi, è stato un piacere, anche ragazzi. Per noi, grazie, per alla prossima. Ciao. Grazie.